24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'allargamento dell'Unione Europea alla Croazia, che si appresta a divenire entro 2 anni il 28esimo paese comunitario. Ancora allarme sul batterio killer con l'annuncio della Russia sulla fine dell'embargo della verdura europea. Intanto sembra finalmente chiarita l'origine dell'epidemia. Sul fronte economico l'Italia continua ad arrancare nella crescita comunitaria. La Germania resta la locomotiva del vecchio continente e per il moto mondiale domenica tappa in Gran Bretagna. L'Unione Europea si allarga ancora, nel 2013 arriverà la Croazia. Salvo sorprese, dal 1 luglio 2013 la Croazia sarà il 28esimo paese membro dell'Unione Europea. Il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, infatti ha spiegato che l'esecutivo dell'Unione considera finiti i negoziati con il paese slavo. Spetterà ora al Consiglio dei Ministri dell'Unione al vertice europeo del 24 giugno decidere se adottare la proposta formulata dalla Commissione Europea. Il 21 giugno è una delle date indicate nelle quali potrebbero riunirsi i 27 ministri degli esteri dell'Unione per adottare la decisione che richiede l'unanimità. Uno dei principali ostacoli per Zagabri era il capitolo 23 sulla riforma del sistema giudiziario. Il commissario per la giustizia Viviane Reding ha detto che solo l'anno scorso non credeva che la Croazia ce l'avrebbe fatta, ma nell'arco di un anno, ha spiegato, hanno completamente riformato il loro sistema giudiziario e in maniera irreversibile. Barroso ha parlato di giornata storica per la Croazia e l'Europa e si è congratulato con Zagabri e con tutti i cittadini croati. Ora la Croazia è pronta, ha aggiunto, e questo è anche un segnale per il resto dei Balcani occidentali. Dimostra che l'allargamento funziona e che l'Unione rispetta i suoi impegni. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un giorno storico per la Croazia. Siamo felici e orgogliosi di aver raggiunto questo importante obiettivo. Lo ha affermato il ministro degli esteri croato Gordan Jandroković, commentando l'annuncio dell'ingresso del paese ex jugoslavo nel luglio 2013. La Russia ha accettato di togliere l'embargo sulla verdura europea imposto da Mosca. Non è stato ancora precisato esattamente quando l'embargo sarà levato, ma dopo l'accordo politico raggiunto sono in corso contatti tecnici tra Europa e Russia per verificare gli aspetti pratici che dovrebbero condurre Mosca a prendere il provvedimento. Questo mentre in Germania l'azienda della Bassa Sassonia, produttrice di germogli e sospettata di essere al centro dell'epidemia di Escherichia coli, è ufficialmente chiusa, tutti i suoi prodotti verranno ritirati dal commercio. Ad aver causato i 30 morti, 29 in Germania, 1 in Svezia, ad aver contaminato migliaia di persone nel giro di 5 settimane, sarebbero i germogli di vari legumi. L'annuncio questa mattina da Berlino da parte di Reinhard Burger, direttore dell'Istituto Robert Koch. In particolare, sotto osservazione, i germogli di una specifica azienda della Bassa Sassonia, che è stata chiusa e tutti i suoi prodotti verranno ritirati dal commercio. L'istituto ha invece scagionato cetrioli, pomodori e lattuga. Al momento almeno, perché su questo batterio se ne sono dette molte e gli errori sono stati tanti. Intanto si allenta l'embargo russo sui vegetali di alcuni paesi europei. Il capo dell'autorità sanitaria russa ha fatto sapere che Bruxelles intende dare garanzie di sicurezza sufficienti per riprendere l'importazione. A Mosca nei mercati scarseggia ormai la verdura fresca. E per fortuna nel nostro paese i controlli intensificati proprio per paura del batterio killer non hanno rilevato al momento nulla di anomalo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E apriamo ora la pagina economica. L'Europa resta trascinata dalla Germania, mentre sulla crescita italiana le notizie non sono molto positive. Una crescita appena percettibile, quanto conferma l'Istat, per il nostro paese. Il prodotto interno lordo agguanta il segno più per un pelo. 0,1% è l'aumento del primo trimestre rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno, l'1% su base annua. La sorpresa arriva dai settori, perché se industrie e servizi restano al palo, l'agricoltura procede con un passo, se non spedito, almeno incoraggiante. Nei primi 3 mesi il comparto agricolo segna un più 2,3% rispetto al trimestre precedente. Secondo i dati Istat, tutte le componenti della domanda interna sono in aumento. Certo, le variazioni sono minime, più 0,1% i consumi delle famiglie che hanno acquistato servizi e sono tornate a comprare beni non durevoli, accantonando i più costosi beni durevoli. Più 0,1% anche per le spese della pubblica amministrazione. Al palo invece gli investimenti che restano invariati. In crescita le importazioni e le esportazioni che segnano un più 1,4%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come di consueto sentiamo ora come ha chiuso la borsa venerdì. I timori sulla ripresa americana hanno mandato al tappeto i listini europei che, dopo un avvio sulla parità, hanno imboccato la strada delle vendite. A Milano il FTSE MIB ha ceduto l'1,33%, il FTSE All Share l'1,27%. A Piazza Affari è stata un'altra giornata pesante per BPM, -3,46%, con i sindacati che si oppongono all'aumento delle deleghe di voto in assemblea e rischiano di aprire un nuovo fronte di lotta con Banca d'Italia. Male anche ST, -2,76%, che paga la debolezza sul mercato dei semiconduttori, dove le varie società coinvolte continuano a presentare risultati deludenti. Atlantia, -2,57%, ha pagato i rumor su un possibile riassetto dell'azionista di controllo che fa capo alla holding della famiglia Benetton, Sintonia. Fra i pochi titoli in positivo da segnalare è nel Green Power, +0,1%, che ha catalizzato qualche acquisto in attesa dei referendum sul nucleare di domenica e lunedì. Guido Maurino, da Radio Corpo a Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Unione Europea sta valutando l'ipotesi di un riscadenzamento del debito greco attraverso la partecipazione su base volontaria dei privati, cioè le banche, sulla falsariga di quanto fatto con l'accordo di Vienna per i paesi dell'Est. Lo ha confermato il portavoce del commissario per gli affari economico-monetari Olli Rehn, ma occorrerà assolutamente evitare, ha aggiunto il portavoce, che l'operazione sia percepita come un default. L'Europa è arrivata a un bivio e nella scelta della strada da seguire si gioca gran parte del suo futuro. Questo è il monito lanciato proprio dal commissario Rehn in vista delle difficili decisioni che l'Unione è chiamata a prendere nei prossimi giorni. La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà il presidente francese Nicolas Sarkozy venerdì prossimo a Berlino in vista del vertice europeo del 23 e 24 giugno. Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. La Commissione europea intende continuare a sostenere i lavoratori licenziati a causa della crisi economica con i finanziamenti del fondo nato per far fronte ai cambiamenti imposti dalla globalizzazione. In scadenza il 30 dicembre prossimo, il fondo sarà ora prorogato fino al 2013. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea solidarietà per le azioni che intende portare avanti nelle opportune sedi internazionali sul caso Battisti. Lo ha affermato il sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo al termine della riunione dei ministri europei svoltasi a Lussemburgo. Sono gli immigrati dal Marocco il gruppo più numeroso ad aver acquisito la cittadinanza europea, lo rileva Eurostat citando dati del 2009, seguono turchi e indiani. In Italia invece la percentuale più alta è quella degli albanesi, seguiti da marocchini e romeni. In chiusura lo sport, domenica si torna in pista per la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, ma anche per il Moto Mondiale con il Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone. In MotoGP, dopo il sesto posto, le polemiche e le contestazioni subite a Barcellona, Marco Simoncelli punta adesso al riscatto. Dario Ricci ha intervistato il team manager di Simoncelli, l'ex campione del mondo Fausto Gresini. Beh, direi che comunque siamo venuti via dalla Spagna bene, tutto sommato è stato un buon weekend perché alla fine Marco ha dimostrato di essere veramente molto forte, psicologicamente anche, che non era facile, ha dimostrato con la pole che ha fatto, e dove si parlava di sport e non di minacce, di altre cose che non fanno parte del nostro sport e del nostro modo di essere. Noi dobbiamo ancora crescere, dobbiamo ancora fare risultati ed è quello che vogliamo e speriamo di fare molto presto. Ci manca ancora questo benedetto podio, speriamo di farlo molto, molto più velocemente possibile. Può essere proprio Silverstone l'occasione buona? Noi non lo diciamo più, diciamo che incrociamo le dita e andiamo a fare questo Gran Premio, sperando che sia un bel Gran Premio. E per gli appuntamenti di lunedì vi segnaliamo che le istituzioni europee osservano un giorno di festa per la Pentecoste. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Mauro De Angeli. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.